amore vivrà. Finché tu m'amerai, la forza di questa illusione non deve, non può morire. Il mio amore vivrà, se con me resterai, è tanto felice il mio cuore, se sono vicino a te. Ardentemente le tue labbra ti bacerò, il mio labbro ti dirà, io t'amerò ogni dì. Il mio amore vivrà, finché tu m'amerai, uniti per la vita insieme alla felicità, così l'illusione vivrà. La vita insieme alla felicità.